Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sono ancora qui, ciao Maurizio. Buonasera Agostino, sei, so che sei ancora qua, sono appena arrivato da poco io, però tu sei presente ancora dalle 21. Maratona musicale questa sera, adesso si cambia completamente genere dopo la compilation dedicata alla ricerca per la leucemia. Abbiamo un gruppo che doveva esserci la settimana scorsa, mi sembra, poi c'è stato un disguido. Un disguido fisico da parte mia, questo è il disguido. Comunque li riabbiamo qui in studio, sono qui a presentarci i loro tre dischi, ma ne parliamo tra qualche istante. Vi ricordo che questa è la nostra emittente Blu Radio Veneto, siete sintonizzati sulle frequenze di 88.794.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri qui in studio, i numeri telefonici ovviamente, il numero qui in studio 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms 346-2320-033, il nostro sito www.bluradioveneto.it e poi ancora il nostro pagina di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto oppure Blu Radio Veneto Rock Wave. Ho detto tutto, ma sono velocissimo perché abbiamo rubato qualche istante, qualche minuto a questa band. Si chiamano The Birds, sono di nuovo qui buonasera a presentarci i loro progetti. Ciao ragazzi, benvenuti. Buonasera a Agostino. Buonasera. Stasera Manuele Marchiori e Max Magro. Buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera. Bentornati dopo quanti anni, siamo venuti fa? Due anni fa? 2010. 2010, esattamente. Sono passati due anni, per due anni di musica, di tante esperienze. E stasera dobbiamo presentare tre progetti molto interessanti, vero? Molto. Innanzitutto, cosa suonate nel dischio? Leggo cosa suoni Emanuele. Emanuele suona, oltre a cantare, la batteria, il piano, il banjo, l'armonio, la melodica e il piano giocattolo. Piano toy, glockenspiel, un po' di tutto. Sono molti strumenti. E Max suona le chitarre e la voce. E chiaro. Il basso anche. Anche il basso. E anche la batteria in due brani, volevo ricordare. Anche la batteria in due brani. Parliamo di questo progetto bellissimo, questi tre progetti, questi tre dischi che sono usciti, che usciranno. Uno è già uscito, gli altri due usciranno. Allora, potremmo vedere, diciamo, tutta questa come un'unica impresa che, diciamo, ha avuto inizio in Villa Widmann sulla Riviera del Brenta nell'estate 2010, dove abbiamo radunato grande star della musica americana, professor Lui, che è venuto qua, saltava con la tastiera, una roba fantastica. Sì, sì, diciamo che in tutte le occasioni che veniamo qua portiamo via la grappa, sì. Che dà un contributo a far saltare delle tastiere. Sì, esatto. Sì, dà un contributo all'insieme, all'umanità, ecco, va bene. E niente, in quell'estate là, insieme al professor Lui, c'era la compagna, c'è Miss Marie, grande cantante, polistrumentista, e dall'altra parte dell'oceano, dall'Australia, o meglio dalla Tasmania, Julian Poulson, che è un viaggiatore, uno sceneggiatore, è un musicista, insomma, che ha una trentina di dischi sulle spalle, insomma, ecco. Quindi in sostanza abbiamo radunato queste collaborazioni che avevamo racimolato negli anni, insomma. Dobbiamo dire che voi siete stati negli Stati Uniti, avete fatto le tournée, eccetera, avete conosciuto questi personaggi. Dimmi Emanuele. No, abbiamo conosciuto questi personaggi in varie occasioni, appunto professor Lui durante la tournée americana e Julian Poulson durante una tournée francese al festival di Binic. Abbiamo conosciuto. Dobbiamo dire una cosa fondamentale: loro sono partiti dalla Riviera del Brenta, cioè da Dolo, un piccolo paese, e via sono volati negli Stati Uniti, una cosa meravigliosa secondo me. Sì, beh, con parecchio. Sì, con parecchio. Non proprio così immediato. Non immediato, chiaramente. Logisticamente sì. Logisticamente sì. Fantastica. Non siamo stati arrestati negli Stati Uniti. Contro ogni previsione, insomma. Sì, avete rischiato, però siamo arrivati anche tornati. E avete suonato là, quello è importante. Sì. Suonato, registrato, conosciuto tantissime cose. E anche, tipo, stiamo aprendo una parentesi importante, perché insomma abbiamo conosciuto anche Levon Helm in quell'occasione, sì, sulle colline di Woodstock, che è venuto a mancare una settimana fa. Dobbiamo ricordarlo. E quindi insomma una persona che conoscevamo come nostro idolo, insomma, e poi abbiamo conosciuto anche come essere umano, che abbiamo abbracciato, col quale abbiamo parlato, insomma, persona molto schietta, molto sì, se ne percepiva molto l'umanità, energico, insomma. Nonostante fosse una leggenda, perché faceva parte della band, un gruppo leggendario, chiaramente. Sì, sì, giustamente come dice Emanuele, è una persona molto energica, nel senso, al di là del male, insomma. Sprigionava un'energia incredibile, cioè, era ammirevole vedere la forza di quest'uomo, l'entusiasmo proprio di nel raccontare, nel voler fare musica. Di continuare a fare musica. Continuare a fare musica, continuare a... Cioè, una roba che abbiamo, insomma, una delle cose che abbiamo imparato, le tantissime cose che abbiamo imparato restando là, è l'umiltà, insomma, che Levon e tanti altri musicisti hanno, insomma. E Levon Helmer era sempre molto interessato ad ascoltare gruppi in ascesa, insomma, gruppi nuovi, gruppi emergenti nuovi, o anche gruppi sconosciuti, insomma. Voleva cercare di capire sempre, di sperimentare, di trovare, di sì, sì, sì, sì, nuovi sempre... stimoli, nuove sensazioni. Beh, era molto curioso anche a livello, mi ricordo che a livello proprio dell'impaginazione anche dei dischi, delle grafiche, eravamo rimasto anche colpito da, perché noi abbiamo portato una versione tra l'altro limitata del nostro primo disco. Citiamo il titolo, dai, Emanuele, visto che era Mephisto Potato Sauce. Esattamente, un disco che ebbe numerosissime e positive recensioni per le novità del progetto, vero Emanuele? Sì, è stato un progetto che ha avuto un parecchio seguito e parecchi riconoscimenti. Sì, e che ha portato anche alle altre, fondamentalmente ha portato anche a queste altre, insomma, realizzazioni, insomma. È stata una via per poter realizzare questi tre dischi. Sì, perché è stato un disco che comunque è stato pubblicato da un'etichetta americana, ha avuto parecchio riscontro nel territorio del suolo americano e poi grazie a una distribuzione inglese comunque è stato distribuito sia in Europa e Giappone. Quindi una cosa molto positiva, sì, sì, sì, decisamente. Sì, diciamo che adesso abbiamo fatto un grosso passo in avanti, però è stato fondamentale che ci sia stata questa scossa. Questa scossa, beh, poi anche il disco successivo di Green Fingers, sì, che era un disco molto diverso, insomma. Anche molto roots, secondo me. Sì, sì, sì, è stato, come dire, un giro di boa. Già il secondo disco, insomma, un giro di boa importante. Insomma, poi comunque... provenendo dalla campagna, insomma, siamo della filosofia che tutto serve e col senno di poi se ne riconosce l'importanza, insomma. Abbiamo imparato tanto registrando i primi dischi, che ci è servito anche dopo, insomma. Allora arriviamo proprio al progetto, questi tre dischi, ecco, che sono stati... Cioè, diciamo, ecco, ci siamo radunati grazie anche all'appoggio del comune di Dolo e soprattutto di quello che, insomma, possiamo chiamare amico, insomma, Antonio Bra, che è assessore alla cultura del comune di Dolo, ci ha coadiuvato, ci ha appoggiato assieme anche alla provincia, assieme a Elio Dasso della PT. Insomma, ci hanno dato sto auditorium di una villa del 1600 da adibire a studio di registrazione. Cosa splendida. Ed è che è diventato un po' come un laboratorio, una bottega artigiana. La vostra villa Dulcimer, praticamente, sì, o una cosa di quel genere. Insomma, un studio di registrazione per voi. Per questo gruppo per tirare fuori questo progetto. Sì, per... ma era proprio un laboratorio, perché alla fine abbiamo... praticamente vissuto per un mese all'interno, perché abbiamo prodotto... No, beh, tre mesi alla fine Villa Vigna. Sì, no, sì, no. Sì, cioè, nell'insieme sì, però, dicevi una roba più concreta, un mese circa. Sì. Bisogna anche citare che siamo stati comunque anche alle ex scuole di Vigonovo. Sì, abbiamo registrato anche le ex scuole di Vigonovo, sì, ci appoggiano sempre, comuni di Vigonovo, insomma. Cioè, abbiamo fatto, insomma, sta cosa all'insegna anche dell'umanità, no? Perché queste persone che arrivano, che hanno legato, che poi quando vivi queste cose ci sono anche molti momenti comici, insomma. Certo. E c'è stato il coinvolgimento, non so, quindi, di artisti internazionali, di istituzioni locali, insomma. Cioè, è stata una cosa abbastanza trasversale, no? Cioè, come tipo quindi di... la musica da questa forza, non ci sono barriere musicali. Esatto, sì. La musica è libera totalmente. Quando uno vuole fare un progetto, se le idee ci sono, si può portare avanti. poi un'altra cosa, Max, volevo ricordare, ci tenevo un attimo, era che tutto è stato possibile comunque, le registrazioni, l'allestimento dello studio, anche grazie al nostro fonico di fiducia che è Francesco Fabiano. A me no, io non volevo tirare, parlare di Franza in questa occasione. No, dobbiamo dobbiamo citarlo. Adesso salutiamo Franza, un abbraccio grande. Adesso cominciamo al primo pezzo dell'album che avete scelto come inizio. Sì, beh, partiamo un po', diciamo, nell'ordine di registrazione. Di pubblicazione, forse. Ordine arbitrario. Ordine arbitrario. Partiamo col primo disco che è Whitman Mansion, che è il disco prodotto dal professor Lui con ospite Julian Pulso. Miss Mary. Ricordiamo anche una partecipazione di un nostro amico che è Jacopo Bratovic alla chitarra slide. Si sente. E niente, il primo disco che, come dire, è già più avanti, nel senso per ora è disponibile in download, è disponibile in America, arriverà anche in Italia probabilmente in occasione di un tour di tutto il roster della Woodstock Record, probabilmente questo autunno, la primavera prossima, insomma. Bene, sentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto, la traccia, ti ricordi il titolo? Life is a Long Hard Road. Perfetto. They took me to the doctor, I shouted to them all. I saw a face inside a mirror, then there was a hole in my skin. One mist came in through the needle, my sight went away. My memory still was clear while poison worked in my face. Look through my window, so hard to explain. I'll be back again. I'll be back again. I'll be back again. Life's a long says I could not kill again, but it just found me. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Effettivamente dà un certo senso, un pezzo veramente che, non dico che rompe il senso positivo, cioè via, da un input non da poco. Ci fa piacere, insomma. No, mi è piaciuto particolarmente. Quando l'ho sentito ho detto questo è un pezzo molto molto significativo. Anche gli altri sono significativi, però ha un certo qualcosa che... È una canzone alla quale teniamo. Io personalmente, che insomma l'ho scritta questa canzone. E l'hai cantata anche? Con i cori, con gli altri, chiaramente. No, l'ho cantata. L'hai cantata, ci sono i cori anche. Vabbè, gli altri hanno fatto i cori. Gli altri hanno fatto i cori. Tu l'hai cantata, l'hai cantata. No, Agostino. No. Hai ragione. Bisogna precisare. Agostino conferma. Bello, tu sei d'accordo? Emanuele è d'accordo. Ok. Però noi non c'eravamo, però, eh. Lo puoi dire solo tu. Sì, Vino Veritas. Vino Veritas. Io sono perfettamente... L'hai cantata, l'hai, comunque, l'hai cantata. Questa canzone qua è, insomma, ha un testo molto importante perché parla di vicende, insomma, che... Magari non entro nel merito, però intense vicende umane legate a vicende di sofferenza, e è una canzone fondamentalmente di speranza, quindi se viene percepito sto stimolo di reazione, sì, è proprio quello che la canzone voleva raggiungere. Benissimo, qui il professor lui giocava, si è messo alle tastiere, ha dato una piano, colorazione incredibile. Piano, organo Hammond. Dimmi. Sì, i cori anche. I cori. E poi c'è Emanuele che si è limitato alla batteria. Sì, no, su questo disco sì. Si è limitato. No, ma c'è un discorso, cari ascoltatori, voi non lo sapete, però prima noi abbiamo parlato della limitazione di Emanuele, nel senso positivo. Emanuele è un personaggio, giustamente, qui davanti, che vuole suonare, giustamente, è un musicista, però quando c'era il professore, allora gli ho detto meglio che mi limiti alla batteria. No, se no non suonava nessuna batteria, più caso, cioè, no, cioè. Ma cosa vi ha insegnato un genio simile? Beh, anche... abbiamo avuto una conferma, prima di tutto, che, di una nostra filosofia, che è praticamente quella della registrazione. A noi ci piace registrare tutti i nostri live che abbiamo registrato, sono registrati dal vivo. Cioè tutto live praticamente, tutto come live. Si usava una volta. Poi naturalmente ci sono delle sovraincisioni. Certo. E il professor lui, anche lui di questa scuola, quindi praticamente tutto live... tutti gli strumenti dal vivo, e poi le sovraincisioni sono rifinimature di chitarra, cori. E... Sì, sì, quello che ovviamente non si può fare contemporaneamente, certo, quando si sta suonando qualcos'altro. Però la voglia di fare tutto dal vivo, cioè l'idea di portare tutto dal vivo. È quello di catturare comunque... Un qualcosa che va oltre la nota, insomma. Giusto, hai detto una cosa giusta, Max, va oltre la nota. Qui andiamo oltre la nota, diamo la forza, diamo la voglia di suonare, e in una certa maniera si cattura, diciamo, proprio l'attimo. L'emozione di ogni singolo musicista, l'interpretazione Cioè, questo chiaramente è legato al crederci che possa fare la differenza un momento, un'intenzione differente nel fare le cose. Certo. Cioè, se uno non ci crede, è chiaro che diventano manierismi e basta, no? Esatto, hai detto una cosa giusta. E l'incisione in una villa del 1600 ha contribuito all'atmosfera oppure? Sì, perché non so, forse per lo spirito del gruppo, così un po' demodé, insomma, no? Il fatto di essere immersi in qualcosa bello, bellissimo, estremamente bello, cioè un'esperienza nell'esperienza, sicuramente che ha coadiuvato anche i rapporti umani, insomma, perché si riusciva a riflettere o con le chitarre acustiche o con la fisarmonica per studiare un passaggio, magari per ragionare su un particolare passaggio, e si era immersi in questo parco con i pavoni che magari disturbavano il pavone, disturbava perché hanno un suono acutissimo che probabilmente è finito anche nelle registrazioni, no? Penso di sì. Ecco, probabilmente. No, no, quindi insomma c'è stata proprio una simbiosi tra i musicisti e l'intorno, insomma. La natura, giusto. Poi c'era anche la curiosità dei, perché la Villa Widmer è aperta ai turisti, quindi c'erano molti turisti che venivano a visitare la villa, quindi... Qualche volta capitava qualche tedesco anche dentro e chiedeva dove era il bagno e così, allora uno cerca di... Fra una registrazione ladra. Di unire l'utile al dilettevole, insomma, ecco, che non si dica mai che gli italiani sono ospitali. Potevate mettere nei cori. Ma probabilmente sono finiti nei cori in qualche modo, insomma. Questo è bello, perché c'è anche lo spirito e la voglia di fare, ma di stare nell'assieme del gruppo. Era una cosa molto al di là delle solite cose che si fanno. Le registrazioni, come si faceva una volta? Sai, Maurizio, cosa? Che bisogna correre il rischio, diciamo, questa è una filosofia nostra, cioè, nel senso che... I dischi fatti così sono dischi che hanno limitazioni a livello di tempo, certo. Hanno limitazioni a livello di soldi, perché è tutto molto reale, insomma. Chiaro. Voglio dire, non è che sia una cosa da raccontare ai nipotini, insomma, basta. Cioè, l'idea è quella di fare un investimento da un punto di vista, da vari punti di vista, artistico magari, ma fondamentalmente chi ha creduto in questa cosa ha deciso a un certo punto di investire, ha pensato che un prodotto di questo tipo potesse funzionare, insomma. Un investimento umano, quindi, anche questo. Sì, però diciamo che c'è gente che ci lavora con queste cose, sì, qua, sì, insomma, sì, ecco, ci vive queste robe qua, quindi noi abbiamo rischiato molto, tutti loro hanno rischiato molto, le persone che poi hanno preso la staffetta adesso, le etichette, stanno rischiando anche molto, loro. È chiaro. E quindi, insomma, questione di crederci, tutto sommato. Vi devo rubare 30 secondi. Prego. Sponsor. Prego. Spot. Cipon 100% Best Live. Su questa radio ogni mese 100 direttori artistici votano i migliori concerti italiani. 50 speaker radiofonici e una giuria tecnica votano per il premio Vox Hill Voce Gola, il prodotto di riferimento per chi della voce se ne intende. Scopri su cipon.it gli orari per ascoltare il nostro programma. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Rieccoci ancora in diretta con la band, i The Beards, che sono venuti di nuovo a trovarci qui in studio. Blu Radio Veneto, siamo a Padova, la nostra frequenza 88.794.600 MHz in modulazione di frequenza. C'è Maurizio che sta cercando di fargli chiacchierare un pochino di più, magari con l'aiuto della bevanda. È solo per rappresentanza. Sì, certo, solo certo. Esclusivamente per rappresentanza. Diplomazia. Sì, assolutamente. Volevo aggiungere una cosa. Dimmi Emanuele. Max, prima una breve piccola parentesi per regalmi al discorso delle etichette, che comunque è stato anche una grande soddisfazione per noi avere la produzione di professor Lui, Aaron Hurwitz, che è stato... Dobbiamo sottolineare chi ha prodotto Professor Lui ha prodotto gli ultimi tre dischi di The Band. Quindi è stato un musicista con Rick Danko, ha prodotto i Mercury Rouge, Graham Parker, era al mixer durante il concerto, quello The Wall a Berlino nell'89. Ha diviso il palco con... da quando dal suo esordio con tutti i nomi più grandi. Quindi... ha mixato per il cinema, per diversi, insomma, che come accennava prima quando stavo parlando. Sì, che l'ultimo film di Scorsese c'è, ad esempio, che è ispirato a Méliès, c'è uno spezzone tratto dal film del 1908, mi sembra. Che ha rimusicato professor Lui. Viaggio sulla Luna. Quindi un personaggio di grande statura. Sì, Beh, io quando l'ho visto qua, io lo conoscevo, la sua biografia, sì, la conoscevo, voi me l'avete fatta conoscere, però quando è venuto qua ho capito di che statura musicale era. Trasmetteva proprio, trasmetteva proprio questo, energia. Esattamente, è quello, trasmetteva l'energia, persona godibilissima, una persona pur avendo suonato con tutti, ma sì, no, la persona, mano. L'umiltà che è qua è umile, esatto. È molto rara. Poi noi siamo stati con lui durante il fase di missaggio, siamo stati con lui in Svizzera durante il Festival Blues di Lucerna. Di Lucerna, e lì ci ha presentato, a parte lui era praticamente era musicista per Guy Davis, il bluesman, abbiamo conosciuto Mavis Temple, gli Temple Singers, quindi altri musicisti che... Molto alla mano, insomma. Che è stato veramente anche quello... Una cosa. Abbiamo incontrato anche Fabrizio Poggi, per dire... Adesso c'è il secondo brano? Certo. Sì. No, perché io volevo approfittare per salutare mia mamma, che forse è ancora sveglia, insomma, allora saluto e dico che... Beh, allora anch'io a questo punto saluto mia mamma. Questa è ostilità, no? Andiamo col secondo pezzo, andiamo secondo... entriamo nel progetto ancora. Così ci calmiamo nel frattempo. No, è giusto. Il titolo... No, comunque saluto anch'io la mamma di Emanuele. Giusto. La salutiamo anche noi, la mamma. Baby Loves to Boogie. Perfetto. Loves the boogie all night long. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. È impossibile stare fermi con una canzone del genere. Ah, grazie. Cioè, non c'è verso. Uno deve sempre muoversi, magari sfondare le sedie, magari cadere. Magari. Però si deve muovere. Insomma. Bellissimo, bellissimo, veramente molto. Abbiamo cercato di coinvolgere un gruppo di 100 ragazze. Ma siamo stati denunciati dopo, però. Per coreografare questo pezzo. Ma non ci siete riusciti? No, penso che abbiamo una denuncia, però adesso risolveremo il fatto, insomma, sicuramente. E parliamo di questo boogie molto grasso, come tu dicevi a microfono spento, il professore si è scatenato qua. E poi c'è una cosa molto bella che loro mi hanno detto, adesso la diciamo, il duello col pianista giapponese. Mi sfugge esatto. Il nome, sì. Però c'è stato un giorno che ha fatto visita in studio un grandissimo pianista che era anche classico. In finale come uno dei migliori pianisti classici giapponesi. E questo pianista giapponese e il professor Lui si sono praticamente duellati. A un certo punto il professor Lui è passato al piano toy mentre l'altro era il piano classico e dopo anche il giapponese ha suonato il piano toy, insomma. Perfetto. Siccome abbiamo registrato, è fondamentale dire che anche il giapponese ha suonato il piano toy. Sì, sì. E siccome abbiamo registrato comunque un documentario di queste session di registrazioni e abbiamo filmato anche questo duello che però per un inspiegabile motivo tecnico l'audio è andato perso. L'avete sottofilmato? Solo filmato? Solo filmato. Purtroppo. Ma non avete mai scoperto il perché? E il perché di cosa? Che non c'è l'audio. No, cioè è stato un mistero. Probabilmente credo che sia il tedesco di prima, quello che andare in bagno, esatto. Che ha messo le mani dove non doveva, capito? Praticamente ha pigiato un tasto che non doveva. Benissimo. Adesso facciamo un altro pezzo perché così sì, acceleriamo un po'. Acceleriamo, no? Non per dare fretta, ma per dare lo spazio totale a questo disco che abbiamo deciso, questi quattro sì. Pezzi. L'altro pezzo, Max, ti ricordi il titolo? In Winter Time. E dopo ne parliamo, chiaramente. So many miles, we've worn our shoes and a heart of stone. I'm still here, left alone. Since you've gone, I can't go on. Since you've gone, I can't go on. Since you've gone, I can't go on. Since you've gone, I can't go on. See Mother Mary by the roadside. I hear all the ghosts tell me you're right. Never follows me, he's lost his soul. I want you back, I will. Since you've gone, I can't go on. Since you've gone, I can't. Rock Wave, l'onda del rock. Max, questo attaccare il pezzo, posso dire così? Attaccare il pezzo. Certo che sì. È il tuo modo di cantare, attaccando il pezzo, nel senso positivo, assolutamente positivo. Sì, beh, a parte che non è molto diverso da come parlo anche. Sì, d'accordo. Però, No, è una cosa, c'è un aspetto della musica al quale siamo molto legati, sto qua del... Poi è particolarmente sviluppato magari col mio cantato, magari in questo tipo di brani qua. Però è il, prendiamo come riferimento l'upbeat di Howling Wolf o di tutta la Chess Record, cioè viene da distante, insomma, è stato ripreso dopo dall'hard rock anni 70, certo, sto sincopare, sto rendere disperi. Beh, dobbiamo sottolineare che forse gli ascoltatori forse non lo sanno, voi avete fatto anche delle cover di hard rock, dei Metallica, mi pare aver detto. No, di Ozzy Osbourne. Ho sbagliato, Ozzy Osbourne, quindi qualcosa dell'hard c'era nel nostro DNA, tra virgolette. Max viene comunque da un'esperienza di vari anni di hard rock. Sì, ma voglio dire, sempre... È una cosa mica negativa, è una cosa positiva. No, positiva. C'è molto più blues nell'hard rock, quello bello, che nel blues più patinato. Ma il moderno, ecco. Certo. Cioè gli AC/DC, per dire, hanno fanno preso da 40 tutto... anni sempre la stessa cosa, però quando lo fanno... AC/DC sono la Chess Records, che è diventata multinazionale, insomma. Certo. Con tutto il rispetto per la grande arte di AC/DC, insomma, però loro hanno... Come i Cane Dit prima sono specializzati in questo tipo di ritmo qua, in Cane Dit nel boogie, come prima di loro Jolly Hooker. Certo. Insomma, voglio dire, tutti hanno attinto. Nella seconda, diciamo, ondata di artisti, diciamo, fine anni 60, 70, quelli che hanno preso dal genere del blues, del Chess Records, tutti hanno avuto fortuna, insomma. Verissimo. E a microfono spento parlavamo di Dila. Dila è un, non dico un vostro punto di riferimento, Dila, giustamente dicevi Max, ha costruito, ha allargato tanti orizzonti, partendo dal blues, poi passato al rock, prima è passato era il folk, cioè tante cose ha fatto praticamente, tante vie ha percorso. Periodo cristiano, gospel. Periodo cristiano, certo. Dila è la contrapposizione a Jimi Hendrix, cioè nel senso Jimi Hendrix è rimasto schiacciato dall'immagine che aveva creato. Sì. Cioè la chitarra che scoppia, la chitarra di fuoco. Però questo fatto, l'aspettativa della gente divenne poi, diciamo, una gabbia per Jimi Hendrix. È vero. Invece Dylan si è sempre disinteressato fondamentalmente dell'opinione pubblica e quindi insegna un modus operandi, cioè un sistema da artigiano di rimanipolare, rimasticare la musica, rimasticare le stesse sue canzoni, le stesse sue canzoni, volta, sì. Suonare una canzone degli anni 20 e farne una del 2000, cioè, è una visione proprio molto molto aperta di tutto il panorama musicale, oltre il panorama musicale, perché ovviamente si riferisce alla musica folk, anche di Woody Guthrie, come è stato detto prima, che è musica che ha a che fare col sociale, quindi non è musica che sta chiusa nella musica, insomma, è impregnata di cultura americana, insomma. Se pensiamo poi al libro di Grail Marcus, che una vecchia strana America, quella vecchia strana America, che sì, appunto legge la storia americana attraverso le canzoni di Basement Tapes. Sì. Cioè, quindi voglio dire, Dylan, anche se non è un riferimento, è come dire, come le sei corde della chitarra, insomma, cioè, è imprescindibile, è vero. Come i Beatles sono imprescindibili. Come i Beatles. Da un'altra parte. Sì, ma un po' però lo stesso modo di essere liberi, no? Perché anche i Beatles sono appropriati tantissima musica, certo, che arrivava, che c'era prima del loro successo. Hanno sempre trasformato le cose, no? Insomma, con grande libertà. Cioè, a noi, nel nostro piccolo, piace il concetto del rischio, dell'umiltà e l'idea di poter trasformare le cose, insomma. E col professor Luri in questo Whitman Menso, come l'avete trasformato le cose? Beh, lui si sente la presenza del professor Luri rispetto al nostro modo solito di fare le cose, ma si sente anche tanto il peso nostro, certo, rispetto a come fa le cose il professor Luri. Diciamo che noi cerchiamo sempre di dare un'impronta nostra in tutti quanti i brani che facciamo. Noi siamo un po' matti, diciamo. E anche il professor Luri lo è. Però è meno evidente, capito? Viene... e quindi si è creato il contesto in cui, tipo, se pensiamo allo Lost Boogie di prima, sì, che ha fatto praticamente un brano hard rock, fondamentalmente un boogie grosso, però, insomma, tipo canne di cospicuo, se veramente. Sì, insomma, ci siamo scambiati un po' le carte. È stato un divertimento anche un pezzo simile, o no? Sì, assolutamente. Al di là della fatica. Chiaramente per inciso un pezzo, dimmi Agostino. No, stavo dicendo, non volevo interromperti Maurizio, ma io credo che ogni disco, ogni canzone che vengono fatte lo fanno con divertimento, altrimenti non la mettono nel disco, giusto? Sì, anche se poi è una mescolanza, no, di sensazioni, di stati sia fisici che d'umore, insomma, quindi delle volte non fai in tempo neanche a capire quando è iniziato il momento. Cioè, ci sono tanti momenti anche di frustrazione, insomma, quando le cose non ti vengono. E se poi magari non ti piace la canzone, la butti via e la rifai. E noi cerchiamo di mascherare in qualche modo le cose. A parte gli scherzi, diciamo, questo è riguardo al discorso del rischio di prima, cioè che può essere che un intero album venga buttato via. Perché qua in zona tutti quelli che hanno un tot di migliaia di euro possono fare un disco, diciamo, però la musica che dovrebbe essere la cosa un po' da poveri, insomma, ecco, diventa poi d'élite, no? Certo. Qua è una situazione che si investe, come dire, il giusto, hanno investito il giusto, però si corre il rischio di buttare via tutto quanto, quindi si arriva alla fine con un disco fatto bene che... sul quale appunto si vuole investire ancora, significa che uno ce l'ha fatta, ma non lo sai prima. Certo. Sentivo stasera, proprio scoperto, non lo sapevo, abbiamo parlato con Maurizio prima, che per esempio Bruce Springsteen, il suo primo disco, l'ha fatto un sacco di tempo per farlo, eccetera. Poi quando l'ha ascoltato non gli piaceva, l'ha buttato fuori dalla finestra, ha detto adesso lo registriamo dal vivo come viene. Ma io dico sta roba qua, lui se lo poteva permettere, capito? Certo. Cioè noi purtroppo CBS dietro, esatto. No, ma era il primissimo, non era ancora così tanto. CBS dietro. Evidentemente se lo poteva permettere, nel senso noi conosciamo la storia di Bruce Springsteen, dei Dylan, cioè teniamo conto che sono grandi artisti, ma hanno avuto anche una dose di fortuna, insomma. Sì, come sempre ci vuole. Con tutto rispetto, ovvio. Basta una canzone, sai, a volte per farti... Beh, loro l'hanno fatta un'infinità per farti conoscere. Brani. Cioè noi diciamo, facendo questo confronto assurdo che non vorremmo fare, insomma, ma proprio ragionando così a voce alta, insomma, cioè noi non possiamo permetterci, cioè, nel senso, potremmo fare una canzone in 100 modi diversi, magari trovare il sistema per fare il lead single da 10 milioni di copie, non so, voglio dire, oppure fare lo stesso procedimento e comunque fare una canzone che non vende, cioè, però qual è la differenza? È che il modus operandi è completamente diverso. Certo. Ricordiamo che per ogni canzone ci sono al massimo 3-4 take, quindi appunto. Agostino, nel senso che ci sono dei brani che magari alla fine dici sì, è venuto fuori, è bello, mi piace, però col senno di poi dei cambiamenti possibili ce li vedi, insomma, non è che non li vedi. Il stesso discorso vale anche nella fase di mixaggio, nel senso che si potrebbe mixare e rimixare all'infinito, però devi porti un limite per chiaramente dopo purtroppo c'è solo una cosa, anche quella cosa dal punto di vista economico sono cose reali, è chiaro. Terminiamo così, per modo di dire, l'accenno al disco With Man Menso con un altro pezzo. Quale avete scelto? C'è un pezzo in italiano che il professor Luri in qualche maniera ci ha pregato pregato, nel senso che voleva fare un pezzo cantato in italiano per dare comunque questa impronta di internazionalità del progetto anche in America. Diciamo che c'è sta, come dire, sta commistione tra i due dischi, no? Ci sono questi due brani in italiano. Infatti volevo chiederti del secondo, perché... che sono praticamente in comune, che sono condivisi da due dischi, quello in italiano prodotto sempre da lui. E Widowma Mansion, che diciamo per ora ha direzione totalmente americana, insomma, certo, come certo. Marketing, se usiamo questa parolaccia. Sì. Qua, e, aggiungo anche che dopo averci chiesto di questo pezzo in italiano, Miss Marie ha voluto fare la seconda voce, anche lei cantando in italiano, è stato anche ammirevole. Il primo brano cantato in italiano da Miss Marie. Quindi anche la velocità proprio di apprendere la lingua, padroneggiarla nel cantato, è stato molto ammirevole. Una mia semplice curiosità, posso chiedervela, come mai avete scelto un personaggio a livello internazionale che canta in italiano, cioè Adamo, nella sua canzone La Notte, in questo disco? Ah, perché è una canzone che attacca. Attacca, sì. Sì, perché... È famosissima in tutto il mondo, poi, tra l'altro, quella canzone. Beh, ma non è... Adamo è un personaggio, che poi non è neanche italiano Adamo. Adamo è fortissimo, poi, che era innamorato di Paola, del Belgio. Esattamente. E quell'altro sarebbe il re del Belgio, no? Penso. Quell'altro che mi fa impazzire. Quindi sì. Faceva il caso nostro, insomma, certo. Sia la canzone che il personaggio. Allora, cosa ci ascoltiamo adesso? I giorni di un codardo. Deserta era la strada, mentre l'estate avanzava. Balconi socchiusi fino a sera, bianco di lenzuola che accecava. Freddo era il tuo cuore, pietra impossibile da scalfire. Giravi in stanze buie, seguendo impronte passate, cercando di dimenticare. Giorni affogati in inutili ore, la gente passava, ignara della tua presenza, con vecchie mura ti confondeva. Tutto ciò non ti sfiorava. Codardo era il tuo nome, facile da dimenticare. Amicizie con carte di giornale e annunci di lavoro occasionale. Nelle credenze e negli armadi, nessun segno di relazione. Finestra non lontana, una donna ti osservava, cercava di capire. Occhi color sabbia di mare, sembrava sincera, curiosa della tua presenza, immobile per ore, si chiedeva il tuo nome, a te questo non importava, a te questo non importava. Restando seduto su di una sedia a ripetere per ore il tuo nome. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Questo era il progetto Whitman Manson dedicato molto agli Stati Uniti, vero e proprio progetto americano. Sì, sì, un disco di americano appunto, al 100%. Passiamo a Mosquito, che è un progetto un po' diverso, sì, ma interessante anche quello. Mosquito è un progetto, diciamo, simile, perché comunque è stato, per così dire, partorito dal stesso team di musicisti, nello stesso clima di scambio di idee, condivisione di idee, sì. Però è un concept album. Un concept album è basato su una sceneggiatura di Julian Poulson, che nasce come colonna sonora di un film. E tutte le canzoni, diciamo, sono uno scorrimento di scenari diversi e raccontano varie fasi della storia di Michael Howe, che è un fuorilegge della Tasmania, cioè un inglese fuorilegge nella Tasmania del 1800, un autoproclamatosi governatore, e un fuorilegge che le autorità non riescono a controllare, tanto che a un certo punto assoldano un gigante aborigeno che è appunto Mosquito. Esatto. E lo mettono a cacciare il cacciatore, insomma. Chiaro, per farlo fuori, insomma. Per farlo fuori. E è una vicenda di galeotti, di mare, di foresta, cioè è di frontiera fondamentalmente. Per quello a noi, a Julian, venne in mente, forse a Julian prima che a noi, l'idea, ovviamente, perché lui la stava scrivendo sta sceneggiatura, l'idea di intenderlo come uno spaghetti western. Diciamo che Julian era molto preparato anche sui film italiani di Sergio Leone, quindi conosceva tutti, anche Corbucci, per dire, cioè aveva visto parecchi film di produzione italiana negli anni 70, spaghetti western. Esatto, e quindi avendo, e questo forse non so, è responsabile anche Digging Fingers. Sì. Come dire, orientando. Sì. C'è un legame, possiamo dire, che è il secondo vostro disco praticamente. Sì, infatti diciamo che Julian ci ha proposto questo progetto quando eravamo in Francia, dopo aver sentito Digging Fingers, quindi penso che abbia un po' collegato la questione spaghetti western a noi, insomma. Quindi la sceneggiatura, noi dall'altra parte a portare la vera parte spaghetti western, e ci siamo messi al lavoro, insomma, con queste prerogative qua. È un disco più sperimentale, perché diciamo Whitman Manson aveva la prerogativa di essere un disco di musica americana, certo, americana inteso come genere, sì, chiaramente. Mentre Mosquito è un secondo me quella psichedelia che anche, sì, che si può trovare anche nel Morricone stesso, insomma, nel Io ho citato Stan Ridgway, quindi quel gruppo straordinario, Cold West, quel famoso Mexican Radio, ecco, tra virgolette, sempre tra virgolette. Sì, sì, diciamo che usa molti espedienti per riuscire a creare delle atmosfere che servono a raccontare la storia, le atmosfere. Certo, insomma, sono fondamentali. E quindi è diventata un'esperienza musicale completamente diversa, cioè, diciamo, un'esperienza musicale nello specifico, parlando nello specifico di ciò che abbiamo fatto, molto diverso rispetto a Widman Mansion. Esattamente. E doveva essere molto diverso, insomma. Il fatto che per ora, insomma, non è stato ascoltato, cioè, diciamo che questa è molto amichevole, ma è un'anteprima, perché certo, assolutamente un'anteprima. Firmando in questi giorni il contratto con Sean Hawking del Metal Postcard, che è un nastro nascente delle etichette indipendenti, una grossa etichetta internazionale, copre praticamente tutto il mondo. E lavora dagli Stati Uniti fino a UK, passando per New Zealand, diciamo che questa etichetta è molto attenta ai progetti che hanno, come dire, questo tipo di trasversalità, no? Certo, capito. E tra poco, insomma, concluderemo la fase strettamente contrattuale, e quindi prevediamo che tra forse per autunno al più tardi, insomma, il disco arriverà anche in Italia. Benissimo, allora cominciamo ad ascoltarlo, questo Mosquito, cominciando dal pezzo che avete scelto praticamente. Blood Red River. Perfetto, lo sentiamo allora. Shine our way for you, no stars to guide you home, no low waits on faraway shores, you're bound to sail along. Oh, drunky sailor, I know where you go. Upside down, walls harpoon the sailors, your tattoos are squid ink brown. Oh, drunky sailor, I know where you go. Oh, drunky sailor, I know where you go. Boogie and last night and met some lovely girls. Before the sun came up again, they found those girls were men. Such a lovely party, until the policeman came, a broken glass, a kick in the hearse, the journey begins again. They went sail away in a Chinese junk. Oh, drunky sailor, I know where you go. Oh, drunky sailor, I know where you go. There's no light that shines away for you, no stars to guide home, no low it's on far away shores, you're bound to say hello. Oh, drunky sailor, I know where you go. Oh, drunky sailor, I know where you go. Oh, drunky sailor. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questa è una classica canzone da, veramente da ascoltare in compagnia, no? Sì. facciamo una ratta con ascoltare in questura. Chiedo domanda, scusa. Max ha sbagliato. Evidenziamo, Max ha sbagliato. Io ho sbagliato. La canzone si intitola Drunky Sailor. E sapeva molto da Bucanieri, sì, sapeva sì, sì. molto esatto. da questo praticamente. E sapeva molto di musica. Io ho immaginato, parlando con Emanuele e Max prima, dai Pogues. Sì, assolutamente. Pogues, musica assolutamente vicina alla musica etilica dei Pogues. Diciamo che però è l'unico episodio forse del disco, sì, che ha questa impronta, si allontana dagli altri. Perché comunque il disco è molto vario, quindi c'è un uso massiccio di cori. Mm-hmm. Abbiamo lavorato molto sulle voci, molto sulle atmosfere, sui suoni, usando diversi suoni. Perché ci sono molti suoni particolari in questo progetto. Beh, partiamo innanzitutto che abbiamo cercato di fare un messaggio creativo. Ci piaceva l'idea di mescolare Daniel Lanois con Morricone, con pezzi di un po' Tom Waits, un po' Tom Waits si sente, non dico che sia presente, però ci sono degli aleggia, vero? Noi diciamo che in base anche all'idea che abbiamo del risultato, come in questo caso il possibile accompagnamento di una scena, certo. Seguiamo anche abbastanza l'istinto, insomma, quindi il processo di missaggio, la fase di missaggio diventa molto importante, molto creativa, cioè tendiamo a registrare molte cose, diciamo, come varie, come l'intessitura di strumenti che poi magari neanche si sentono alla fine, oppure addirittura vengono esclusi o altri vengono enfatizzati. Appunto si cerca di creare una trama fondamentalmente tra i vari strumenti, allora riusciamo a coniugare magari non so, una melodica a una chitarra elettrica, o cioè niente di nuovo, voglio dire, però insomma, per dire che abbiamo acquisito sto modus operandi qua. E questo modus operandi, questo disco avete suonato molto di più rispetto al disco precedente, cioè avete suonato, tu, Emanuele e Max, suonate praticamente tutti gli strumenti. Sì, sì, Emanuele ne suona parecchi, tu suoni le chitarre, il basso e la voce, chiaramente la voce. In questo disco suonano le chitarre, la batteria in due brani e canto, insomma. Niente, qua Julian si è limitato a suonare la chitarra acustica, mi pare. Sì. E ha cantato. E il professor lui ha fatto le tastiere, ha suonato le tastiere. Il piano su sei brani, mi sembra. Brani. Piano, organo e fisarmonica. Quindi questo non è un disco americano rispetto al precedente, questo è un disco di trasformazione, di evoluzione, ci sono tanti suoni che vengono assieme. È proprio un disco più di frontiera. Di frontiera, esatto, un disco di frontiera. Ok, andiamo avanti allora a presentarlo ancora. L'altro pezzo che abbiamo scelto, io ho paura a dirlo, doveva essere Blood Red River. Sì. Adesso no. confermo. Okay. Max, citiamo che c'è la voce. Sì, dai, citiamola. Martina Zordan, la voce, una cara amica, che va, una che cantante ha prestato stupenda, la voce, insomma, nel vostro esperimento, nel vostro progetto. Sì, sì, sì. Okay. Che diciamo che si avvicina un po' a un'atmosfera un po' Pink Floyd, diciamo, questo brano. Floydiano. Forse. Non so. Sì, sì, sentiamo. Gotta get across the blood red river. Gotta get across the blood red river. Gotta get across before the sun goes down. Gotta get across the blood red river. I don't wanna go there. I don't wanna go there anymore. Gotta get across the blood red river. Gotta get across the blood red river. I don't wanna go there. I don't wanna give up anymore. Gotta get across the blood. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. l'onda del rock. E salutiamo anche e ringraziamo Alberto Pisco, il nostro direttore artistico, sì. Grazie a lui stasera siete qua e quindi vediamo sotto. Lo ringraziamo, grazie Alberto. Grazie Alberto. E una cosa da sottolineare in questo pezzo, due cose. Prima discorso del trapano, come diceva giustamente Max, questo pezzo, questo continua nota martellante in testa. Ci sono due strumenti che martellano, uno è il pianotoi che fa l'inciso durante il pezzo, durante la strofa, poi nel ritornello c'è l'entrata di questo organo. Che ho distorto. Ma il ritornello è bellissimo. A me sembrava molto dark, molto malinconico. E la voce di Max, un po' Mark Lanegan in questo momento, secondo me. Molto nera, ma un nero però. Un nero dark, Mark. C'è poco da. Max. C'è poco da fare. Sono pezzi un po' oscuri. Diciamo. Molto oscuri. L'idea di questo pezzo è. Diciamo il. C'è un avvicendamento nei vari pezzi perché cantano i vari protagonisti della storia. La storia di Michael Howe. Siccome Mosquito fondamentalmente sto aborigeno, poveretto, insomma, non gli interessa di far fuori Michael Howe, ma gli interessa di tornare semplicemente a casa, non può più di combattere. Allora il brano si divide in due parti. La prima un mantra. Il mantra che tutte le persone hanno quando proprio sono sfinite e entrano in uno stato proprio di disperazione talmente profonda, talmente radicata che si proseguono però risucchiando energia chissà da quale profondità di loro stessi, insomma, certo. O di noi stessi, e quindi l'interpretazione evoca questo tipo di anche nella voce. Evoca questo tipo di interiorizzazione, insomma, del dolore, di sofferenza, potremmo dire. Di sofferenza. E siccome appunto quando una persona attraversa condizioni di questo tipo umane, la realtà che ti circonda non ti lascia stare, quindi c'è questo organo che è una specie di spillone, di coltello che entra nella carne, insomma. Sto suono da trapano, da dentista, insomma, che e torna continuamente col procedere del mantra. Poi appunto il brano si divide in due parti, la prima parte il mantra, la seconda parte la filastrocca, insomma, una filastrocca drammatica, ma pur sempre una filastrocca, nella quale proprio emerge il lato umano, il lato profondo, il bambino che è anche dentro un gigante che, capito, che deve, cioè, per tornare a casa deve andare a ammazzare uno che neanche conosce. Esattamente. Insomma. Benissimo, una spiegazione perfetta, si è capito decisamente le due facce di questo pezzo, sono facce importanti. Ultima cosa volevo sottolineare, Emanuele, l'idea del trapano, dell'organo così l'organo distorto. Come l'hai avuta? diciamo che... Noi lavoriamo sempre assieme, anche quando uno suona uno strumento e l'altro, cioè, ce li scambiamo anche. Certo. Gli strumenti che riusciamo a scambiarci, insomma. Diciamo che mentre stavamo registrando abbiamo provato a capire... Abbiamo voluto esasperare questo aspetto. Sto fastidio, insomma. E difatti questo è un album di ricerca totalmente. Cioè adesso vorrei dire, c'è una roba quasi esagerata, ma è come quando il povero Gesù sta portando la croce e c'è quello che va, insomma, a tirargli i sassi. Sì, certo. Cioè, questo è il tipo di concetto. Spero che venga presa solo la metafora umana, insomma. Certo, certo. Ok, bene, andiamo un altro pezzo, sempre da questo progetto. Ti ricordi il titolo? Non mi ricordo. No Minor Man, forse. Yes, proprio quella. No Minor Man. Okay. È una sorta di... Rock and Roll. Non so dove. Maggie's Farm del 2010. E 10. Ok. Well, I left home at the age of 10, sailed the seven seas, rescued and aboard the ship of the Royal Navy. I cleaned the mess, I swabbed the desk, I work as a powder monkey. I ordered every can of weed and mess and for the polio. I'll serve the king and I won't be asleep to no meaner. ship went down to the coast of Spain. Swam to the shore and my life did change. I met a bella señorita. I had to run when the Frenchman came. I had served the king and I won't be a slave for no meaner man. So this is my message. Get no job, they tax a land river, I would fish in the sea. I bought myself a gun, I took to the highway. So this is my message to you, governor, free from blood and blood. Eccoci qua, abbiamo sentito un po' di rock and roll. Rock and roll fa sempre bene alla salute. Assolutamente. Condensato in due minuti. In due minuti, beh, più che possiamo dire punk, rock and roll praticamente. Un condensato di due minuti è decisamente punk. Non è punk, però no, di solito è così. Ecco, tornando diciamo a Dylan, questo è l'esempio di una canzone che racconta una storia in pochissimo tempo. Insomma. Ed è la storia di Michael Howe, del fuorilegge, prima di diventare il fuorilegge, cioè la leggenda in Tasmania, insomma, che viene imbarcato contro la sua volontà, che non ha neanche 10 anni, e poi scappa dalla nave nuotando, arriva in Spagna, trova una bella signorita. Poi arrivano anche là Napoleone con i francesi, che ce l'ha a morte, insomma, tanto con Napoleone, tanto che dice che carica ogni cannone con messaggio per Napoleone, insomma, dice. Tanto c'è la rima anche in italiano che funziona. Sì, esatto. E poi arriva, torna in Inghilterra, trova le tasse e a quel punto là si prende una pistola e va in Tasmania. E va in Tasmania. Diciamo che Julian ha fatto comunque un piccolo capolavoro di scrittura, sì, quindi ha condensato veramente un'intera storia in meno di due minuti. È il appunto il Michael Howe giovane, insomma, quindi con la baldanza. Come ci si arriva a raccontare una storia del genere? Cioè, voglio dire, dove ha preso la notizia di questo bandito in Tanzania? No, beh, lui ha fatto, Tasmania. Cioè lui è tasmano, sì. Cioè, e ha fatto delle ricerche molto approfondite. Sì. Poi c'è anche un libro, bisogna ricordare che comunque tutta la storia è tratta da un libro. Sì, stiamo parlando di una vicenda che ha una popolarità in quella zona, insomma, cioè che gode una certa notorietà, diciamo così. E no, volevo aggiungere che la terra si chiama Van Diemen's Land. Van Diemen's Land. Tra cui anche gli U2 avevano scritto una canzone ispirata a sta cosa qui. Questa è una piccola parentesi. Sì, diciamo, questo è una, cioè, molto più articolato qua, proprio in tutto, cioè, il respiro. Si è documentato praticamente, Giulia. Julian, diciamo che dopo un esordio di carriera che è stato sotto la EMI, ha anche avuto un contratto per la EMI, insomma, ha avuto, dopo una prima fase della carriera è passato a occuparsi più di questioni più culturali, insomma, ecco, più, non solo musicali, sì, strettamente sì, musicali, ma anche, e a questo progetto ci ha lavorato tanto, insomma, prima di arrivare a scrivere le canzoni. Disco, quindi. Voi ci siete stati in Australia, no? A vedere queste zone, no? No. Non ancora, insomma. Dovevamo andare l'anno scorso. E com'è il progetto? Se c'è un problema di un'idea, allora, vero? Sì, in poche parole, Julian voleva presentare una sorta di musical di questo Mosquito, con la presentazione del disco al Mama Foma Festival, che è uno dei più importanti festival artistici in Australia. In Australia. E che tra l'altro è organizzato da Brian Ricci di Violent Femmes, sì, certo. C'è anche l'appoggio di Nick Cave che collabora, quindi, però l'anno scorso era ancora prematuro per... Sì, ci sono tante cose, c'è un cantiere aperto, la fase, sta seconda fase, poi come abbiamo detto prima, non è da molto, cioè, stiamo appunto ultimando la fase contrattuale adesso, insomma, state firmando i contratti, anche perché certo. Bisogna comunque aggiungere una piccola parentesi, che diciamo l'attore che aveva prestato sul screening test del film è deceduto in maniera tragica a gennaio, quindi questo ha causato dei rallentamenti, certo. E sì, ovviamente ci sono questioni anche più importanti, ecco. Chiaro, chiaro. Allora proseguiamo e finiamo la presentazione di questo Mosquito con un altro pezzo che avete scelto. Questo è un brano che canta Giulia. Benissimo. È una canzone, cioè, come dire, un altro aspetto, l'aspetto dell'amore di questo disco, che del quale io non mi occupo, come io interpreto, insomma, le parti più maschie, più ubriacone, insomma. E canta più ubriacona è su Tranqui Sailor, ecco, scusa Emanuele. Comunque sta canzone qua è Michael che canta la sua amata, che è una ragazza aborigene, insomma. L'ascoltiamo. Non sto più. Prego, prego, prego. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito questa ultima parte, questo suono modificato, distorto. Cosa vuol dire, Emanuele e Max, un messaggio in un disco simile? Diciamo che, come anticipato prima, il messaggio è molto creativo, e anche quando in fase di registrazione, quando suoniamo dal vivo oppure anche quando facciamo le sole incisioni, abbiamo una proiezione di quello che facciamo sulla canzone finale. Però è come allestire un'orchestra di vari elementi, e il messaggio diventa tu passi dal musicista al direttore d'orchestra, quindi è una fase creativa importante. Certi elementi sonori, il fatto che l'utilizzo anche di cose messe molto in evidenza e cose messe molto in distanza ha molto a che fare con l'efficacia dei brani. Uh-huh. E per non parlare poi di riverberi, il tipo di riverberi che vengono scelti. Nell'ultima canzone abbiamo avuto un esempio abbastanza evidente, certo, di certo, un uso di riverberi notevole, cioè distanze. Uh-huh. E di particolare, ad esempio, il suono del rullante, della spazzola sul rullante è un baricentro del brano, quel particolare magari suono di chitarra molto riverberato, anche quello, per non parlare della voce, insomma, che non abbiamo, come dire, cesellato tanto per arrivare a questo punto. Sì. Certo. Adesso arriviamo al terzo progetto, totalmente in italiano, si chiama El Brigante. Sì. E come ne parliamo di questo progetto totalmente in italiano? È molto semplice. Ipotetico sesto disco, anche se non è vero, o è vero, Emanuele? Beh, ipotetico no, è il sesto disco, perché ufficialmente c'è un quinto disco fantasma che abbiamo registrato sempre in Villa Wittmann. Che è ancora in garage. E se ne parlerà l'anno prossimo. Quindi il sesto disco vostro. Sì. In italiano, prodotto dal professor Lui e da noi stessi. Da voi stessi. E diciamo disco... che... No, scusa. Scusa. Dimmi. Allora, come abbiamo detto prima, ha in comune due brani con Wittmann Mansion, quindi che proprio a segnare la stretta connessione tra i due lavori. Già per quanto riguarda Wittmann Mansion, il primo disco italiano, se non europeo, prodotto dal professor Lui e su etichetta Woodstock Records. E aggiungiamo, disponibile su iTunes, Amazon, Deezer, tutti quanti questi portali, per chi lo volesse scaricare. Certo. Finché non arriva appunto in Italia il fisico, insomma, la copia fisica. L'idea del Brigante, da un punto di vista proprio discografico, è il fatto che, oltre a fare un disco con un gruppo italiano, facciamo anche un disco in italiano. Certo, certo. Col professor Lui. Chiaro. E diciamo che, non avendo quello splendido vincolo, ma pur sempre vincolo, di essere un disco di musica americana, ha un po' la componente sperimentale di Mosquito, insomma. E difatti, da questo punto di vista qua, sarà promosso sempre dalla Metal Postcard, la etichetta di Mosquito, insomma, un'etichetta internazionale. Diciamo anche perché si chiama anche Il Brigante, perché ha una componente... Prima di tutto bisogna spiegare che Il Brigante è un termine dialettale per spiegare che è una persona praticamente che... un po' combina delle maracchelle, sì, un simpatico fuorilegge, insomma, ecco. Sì. Noi siamo molto legati al nostro territorio, insomma, alla fine, pur essendo così, ecco, una cosa importante forse da aggiungere è che questo disco riprende un pochino una piccola parentesi che abbiamo aperto con Mephisto, Potato Sauce, che rientrano un po' questi racconti del territorio del Veneto, della campagna veneta, quindi abbiamo ripreso un po' ispirazione. Cioè, la campagna veneta era anche fatte di fuori legge, ne abbiamo avuto uno strascico fino a forse la madre Brenda, insomma, certo, dire, certo. Cose positive, cose negative, per carità, però era un posto molto vivace, forse adesso non lo è più, insomma, ecco. Beh, quindi sì, questo è il Brigante, insomma, coglie questo, quello spirito questo, là. Questo spirito adesso partiamo, sì, cogliamo subito lo non spirito. Mi ricordo più. No, facciamo cioè, nei giorni nebbiosi, che una piccola curiosità, abbiamo registrato per la prima volta a Manhattan, a New York, nel 2006, sì. se non sbaglio, una prima versione di cui abbiamo perso i nastri, nel senso che i nastri sono andati a fuoco con lo studio, si sono rovinati, e abbiamo perso la versione, e un brano che abbiamo riregistrato e... sì, che no. Ecco. Ecco, lo sentiamo. Nei miei pensieri, aspettando un tuo ritorno, pensando a ieri, sdraiato su una maca color panna, accecato dai riflessi tra i rami in fiore, passo il tempo tra orologi in cucina, lontano dalle tue parole che non posso sentire, vivo nella paura di diventare un tuo modo di dire, un tuo modo di dire, modo di dire. Errori evidenziati dal rosso del vino, sul passo incerto del mio stanco cammino, sogno di un tuo ritorno, forse un giorno nel riflesso di una bottiglia, accette a tempo per scandire i giorni da dimenticare, e ruggine negli occhi del dolore, e ruggine negli occhi del dolore. Non potrò capire se nella lontananza mio gesto ti potrà mai far cambiare, il tempo passato ad aspettare le tue parole d'autunno passite al sole. Sale del mare, si dissolvono come il sale del mare, si dissolvono come il sale del mare, si dissolvono come il sale del mare, si dissolvono come il sale del mare. Eccoci qua, velocissimamente, per dare un input a questo pezzo. Innanzitutto una grande chitarra di Max, dobbiamo dirlo, sì, che duettava col trombone di chi? Di Howard Johnson. Di Howard Johnson. E poi tu suonavi il banjo. Io sono il piano, il banjo. Poi suonavo un po' di tutto, sì, praticamente. Batteria, voce. Io suono anche il basso. Anche tu suonavi, sì, anche il basso. È un pezzo, come diceva giustamente Emanuele, a microfono sì, spento. Sì, ha una mescolanza un po' New Orleans. Sì, un po' Caposella, un po' Tom Waits. Cioè, un po' vostro, assolutamente. Sì, beh, è nostro. Assolutamente vostro. Assolutamente. Io non ho mai vostro. Ascoltato Caposella. Non l'hai sentito, beh. Diciamo che saluto, se in ascolto. No, Benicio. No, breve parentesi, velocissima, per dire che appunto in questo disco ci sono, si tratta soprattutto di persone, di aspetti, di sentimenti e di situazioni umane. Quindi per ricollegarsi al disco precedente, al primo disco che avete fatto. Andiamo subito all'altro pezzo, come si chiama? Ti ricordi? Forse Vecchia Emma. Bravissimo, vedo che sei vecchia informato. Vecchia il sottotitolo Cavansae per l'inferno. Io volevo far notare che Se il livello... Spieghiamo un anno secondo cos'è il Kawasae, magari per chi non lo sapesse. Il Kawasae è una stradina, diciamo, in mezzo ai campi, che veniva usata per dai contadini per lavoro, insomma. Certo. Ecco. Ma di che zona è questa? No, questa zona, il Padovano, anche il Veneziano. Mai sentito. Magari verso molto parte di Civecco, Rezzola. E... Com'è che si dice? Kawasae, oppure Kawasae. Dipende un po'. Kawasae, non l'ho mai sentito. Beh, adesso lo sentiamo, ok? Ok. Eccoci qua, pezzo molto complesso, però in qualche secondo ne diamo la descrizione. La tua è una parabola soul, leggermente soul, come giustamente diceva Emanuele, ah, ma però un soul molto, molto, nel senso, potente, quasi sofferto. Beh, è una canzone che parla di due vicende della campagna veneta. Veneta, due vicende, cioè una legata alla stregoneria, cioè che tra l'altro sono due storie raccontate da mia nonna che ha 97 anni. Ah, perfetto. E l'altra è una storia spiacevole perché in campagna succedevano di quelle cose tra la nebbia che, cioè, raccapriccianti. C'era un signore stonane che ha fatto sparire più di una moglie abbastonata, insomma. Quindi la fusione delle due storie, nella fusione delle due storie si immagina che sta Emma, in realtà è una strega e torna dalla di là. Quindi le Mardo Ballad non sono solamente quelle di Nick Cave, ma sono quelle nostre, sì, praticamente. Abbiamo parecchie storie qui. Certo. Che si assomigliano, noi si assomigliano, c'è un collegamento. Sì. E un'altra cosa positiva che tu hai citato, il discorso dei cori all'abbattiato un pochettino. Ah sì, no, c'è un po' di strascico. Strascico pop all'abbattiato. Perché io sono un passionato di battiato, quindi abbiamo voluto un po'... L'ho voluto io, tra l'altro, che odio battiato. Che odio, benissimo. Però salutiamo anche battiato. Esatto. Ciao Franco. Ciao Franco. So che è con Caposella adesso, sì, che sì, sta ascoltando la trasmissione. Esattamente. Benissimo. Allora, un altro pezzo sempre da questo progetto, da Il Brigante, titolo? Gina la Lunatica. Benissimo, ok. L'altra sera bevevo al night, vedo entrare Gina con uno che non conta niente, spingo via la gente, vedi rotti sulla moquette, il sangue del tipo scorre, sprezzo dritto ad un altro bar, vodka, caviale e champagne, al pasqualo la corvette, mordo l'asfalto e brucio, io muoio per te. a tutto polmoni, vero Max? A tutto. Questa è una canzone. Si chiama Gina Luna, basta. Solo quello. Parla sempre di vicende vere. Mafia, Riviera del Brenta. Ecco. Parla. Adesso andiamo con l'ultimo pezzo che si intitola L'apatia degli amanti, che è un brano musicalmente scritto in collaborazione con Alessandro Graziano. Che ha collaborato anche al primo. Sì, che ha collaborato, partecipato al banjo e mandolino nel primo disco, come visto. È venuto con noi in Francia. Bene. A Binic, al festival. Ha conosciuto anche lui Julian Polso. Esattamente. E direi che possiamo ascoltarlo. Sì, è una ballata. Benissimo. C'è una stella appassita nell'universo di lei, che stenta di colorare le nottate d'amore. Come pensi di stare senza le spiagge di lei, dove il tuo mare inquieto approdo trovava? Se servirà quel qualcosa di buono o sbagliato che qualcuno ti ha preso solo per vanità. Perché vuoi beffarti del tempo di ridere e non getti uno sguardo su cos'è la tua vita? In fondo ti chiedi se servirà quel qualcosa di buono o sbagliato che qualcuno ti ha preso anche solo per vanità. Se per caso ti arrendi alla tua smania di vivere con parole sfiorite e profumi d'incenso, in fondo ti chiedi se arriverà qualcosa di buono o sbagliato che qualcuno ti ha preso solo per caparbietà. Senti ancora il lamento a servire il tuo orgoglio, il correr controvento che non vuole fermarsi, non vuole allontanarsi da me. C'è una stella rapita nell'universo di lei che stenta di ritornare nella notte in dolore. Un giorno ti chiedi se arriverà qualcosa di buono o sbagliato che qualcuno ti ha reso solo per la tua pietà. Un giorno ti chiedi se arriverà qualcosa di buono o sbagliato. Un giorno ti chiedi se arriverà. Un giorno ti chiedi se arriverà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo finito. Dobbiamo solo ricordare un grande professor lui della fisarmonica, sì, e tutte le altre cose connesse alla fisarmonica. Adesso citiamo, Emanuele, il sito, che è importantissimo. Sì. Allora, il sito web è www.thebeards.it e poi abbiamo una pagina Facebook, www.facebook.com/beards.band. E ricordiamo che i dischi che abbiamo ascoltato questa sera, il primo era Whitman Mansion, che è disponibile su iTunes, Amazon, Deezer, tutti quanti per la Woodstock Record. La Woodstock Record. Poi abbiamo ascoltato Mosquito, che tra poco sarà disponibile. Essere disponibile sia in versione fisica che in versione download su etichetta Metal Postcard. E infine abbiamo ascoltato El Brigante, anche che questo arriverà probabilmente subito dopo Mosquito, sempre per la Metal Postcard. Benissimo, abbiamo concluso questa cavalcata, ci riproponiamo in una prossima puntata fra qualche mese, non si sa, tutto dal vivo, sì, con certamente gli strumenti, quindi parleremo ancora di questi progetti. E terminiamo con... Aspetta, io volevo fare una domanda a loro. Prego, prego. Non avete mai detto i prossimi concerti, dove li fate, se li fa, sì, e come vi proponete al pubblico? Beh, allora, diciamo che attualmente ci proponiamo in duo oppure in trio, insomma dipende dal tipo di situazione. E in questo momento qua ci siamo presi un attimo di riposo perché abbiamo registrato tanto, abbiamo fatto tanti concerti l'anno scorso e poi posso dirlo che ad agosto diventerò papà, quindi complimenti. Quindi insomma congratulazioni, complimenti. Quindi, alla mamma, non a te. Sì, alla mamma. Sto scherzando. Beh, sto scherzando. Insomma, complimenti anche a Max. Ovviamente io sono contento. Quindi siete un attimo in relax, insomma, in pausa. No, relax no, perché a sto livello qua dobbiamo far tutto, dobbiamo far tanto noi, insomma, quindi adesso stiamo seguendo gli ultimi due dischi, che appunto Mosquito e Il Brigante, che abbiamo finito di mixare da poco, insomma. Quindi è stata un'anteprima assoluta per noi, assoluta, Agostino. Assoluta e amichevole. Amichevole e assoluta, ok. Io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo con un blues, con i The Twisters e l'Alice Violato assieme. Ah, Maria Vergine! Sì. Che salutiamo! Li conoscete, ecco, benissimo. Sì, sì, sì. Saranno presenti qui giovedì alle 21 con il loro nuovo disco. Presenteranno anche la canzone che piace tanto al sottoscritto, I Rather Go Blind. Quindi un saluto lo mandiamo anche ad Alice. E noi ascolteremo assieme a Caposella Battiato. Certo. Grazie ai The Beers. Grazie. Ci a voi, grazie a Maurizio. Con... Mosquito. Che ciao. Sono la batteria, io Max sono la batteria, io la chitarra elettrica. Esattamente. Buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte. I don't wanna kill you, I want to go home. Veneto come non l'hai mai sentito.